che ce l'avevo in macchina, poi l'ho portato a Walter, l'abbiamo provato e come per incanto non funzionava più, non capisco il perché, però ho preso corpo, che adesso fatto sta che non funzionava, allora ho fatto il metto, se ne è qualcuno mettimela posticciamente, ho detto guarda l'originale non ce l'ho, ce l'ho un po' più grande, ma come ti metto lo stesso, poi quando trovo l'originale mi lasci con l'originale che c'è, vado, la compro e me la piazzo. E per il momento vado per funzionare per metterla in macchina. E così ho fatto, poi ho messo lui, io mi avevo detto che non era originale, era una cosa posticcia quella. Ma avete sbagliato, perché quella colonnina va tolta e praticamente va messa quella sua originale, con gli uomini originale, per far sì che il parlascolta sia perfetto e il modulatore sia in ampiezza modulata come deve essere questo. Non dico come questo, perché c'è il doppio modulatore, però deve spingere come quella di Tore. Se tu senti a Tore e a Daniele sono due, sono completamente diverse, nonostante una sia fatta in modo uguale all'altra, tutto lì. Poi io non sto dando colpa a nessuno, io sto esprimendo il mio parere e il referto medico di quello che mi hanno mandato, ok? Tutto lì. Però, ripeto, non voglio sentir dire che io ho dato una radio che non era a posto, perché ho tolto dalla mia macchina ed era più che a posto, più che a posto. Questo io non l'ho mai detto, ma ti sto dicendo che devo pensare a Walter, che la macchina mia funzionava, poi l'ho contattato a lui e dico abbiamo proposto, proviamo, la prima che non ti farà bene, no? Dice non fa nulla, già mi fido, ma provala, mi devo provare, non me l'era provata perché non funzionava la colonnina. Però io quando ho tutta la macchina funzionava, una cosa già la faceva, che ogni tanto non si sentiva, ogni tanto non si sentiva, spariva la modulazione, poi gli dava un colpo, dove si stava partendo. A me Gianni non me l'ha mai fatto. Non so se c'è Gigi Vulcano qua. Oh Gigi! No, vabbè, comunque una cosa che a me non interessa più quella. Io sono stato onesto, gli ho detto che era quello lì che non funzionava, a lui gli è piaciuta lo stesso, l'ha presa, quindi io non ho più niente a che fare con questa storia qua. Apprezzo tutto, ma non apprezzo quando si iscrisse una radio che effettivamente andava bene, tutto qua. Vabbè, d'accordo, va. Comunque è andata così, vabbè. La cosa che un po' mi disturba è che eri molto entusiasta di quella radio, io lo stesso, perché a me andava bene. Ho speso altri quattrini per comprarne un'altra, perché a me piace questo tipo di radio in macchina, eccetera. E poi, insomma, sono rimasto un po' così. Vabbè, comunque il discorso è chiuso, non se ne parla più. Va bene lo stesso. Ok. Natale, Capodanno, l'Epifania, Giappa. Sono qua. Già. Bisogna vedere cosa decide quella l'altro, io glielo chiedo e vediamo un po'. Ma vabbè, se no si deve andare da lì. Sì, vabbè, là, vediamo un po'. Stasera lui. Ma più tardi deve uscire, se no ce ne siamo in moto prima faccio un giro, prima c'era la moto. Sì, già ce l'ho la moto, già. Vabbè, allora ci facciamo un giro in moto lì, perché poi le sentite per telefono. Poi già mi telefona lì, la telefono io, non c'è problema per quello. Ma buona. Allora, se sei pronto, fida la moto e farà a casa, io se ne andiamo a farci un giro. No, aspetta, prima che chiedo, prima chiediamo e poi diciamo se possiamo. Aspetta un attimo. Vedi, Claudio. Ehi, riprendo, non ci sono problemi, tutto, ma io domani mattina devo andare a trovare un amico fuori, con la moto, moto, moto e via. E poi niente. Tutto ok. Adesso molto non prendo perché sono qua, sto facendo alcune cose e mi rimango qua. Non mi stavo, stiamo molto volenti che la tua Tomino, mio e Claudio. Già va bene. Cosa c'era di molto parcheggiato a quel lido? C'era l'imbarazzo della scelta. Cosa vuol dire di molto? Ui. C'è un filo di molto. Faccio il giretto così, subito. direi, faccio un giro così che piace un po' di fresco. Ma non tardiamo, perché poi alle 7, cioè alle, vabbè, devo togliere la macchina al garage perché servirà e deve andare a Olbia. Io se non penso che alle 7 dopo che poi devo uscire dal Gary, ma no, saliamo prima. Vabbè, al limite tolgo la macchina, fatti vedere sotto in tre parti, ciao. Ciao Luca. Ciao. Ciao, ciao.